Ad alta voce. Elia Shilton legge Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque. Ci mandano innanzi a stendere reticolati. All'imbrunire arrivano gli autocarri, ci arrampichiamo su. È una sera calda, il crepuscolo è come un velo nella cui ombra ci si sente sicuri. Esso ci riavvicina l'uno all'altro. Persino l'avaro Tiaden mi regala una sigaretta e mi aiuta ad accenderla. Strepito di motori, traballare fragoroso di carri. Le strade sono consumate e piene di buche. Non si possono accendere i fanali, sicché ad ogni istante i carri vi incappano e quasi siamo sbalzati fuori dall'urto. Tutto ciò non ci inquieta, tanto il peggio che possa capitarci è la rottura di un braccio, sempre meglio che un buco nella pancia. Più d'uno, anzi, si augura che un simile incidente lo rimandi a casa. Accanto a noi, in lunga fila, passano i convogli di munizioni. Hanno fretta e di continuo ci oltrepassano, scambio di frizzi fra le colonne. Poco lungi dalla strada si scorge il muro di una casa. Ad un tratto aguzzo gli orecchi. Sì, non mi inganno, sento un quacquà di oche. Guardo Kaczynski e lui guarda me. Ci siamo capiti. Kat, sento odor di padella. Lui facendo col capo. Sarà fatto quando torniamo, conosco il settore. Naturalmente lui conosce il settore. Non una zampa d'oca gli sfugge entro un raggio di 20 chilometri. Siamo arrivati nella zona delle artiglierie. Gli affusti sono dissimulati alla vista degli aviatori mediante cespugli. Si direbbe una festa campestre e militare. Questa sorta di pergolati ha un aspetto pacifico e allegro. Peccato che sotto ci siano i cannoni. L'aria si fa densa di fumo e di nebbia. L'odore della polvere è acre al palato. I colpi scrosciano, fanno traballare il carro. L'eco prolunga ogni detonazione, tutto ondeggia. Insensibilmente i nostri volti cambiano espressione. In realtà non si va in trincea, non si ha altro da fare che stendere reticolati, eppure in ogni volto si scorge che siamo ormai sul fronte, che esso ci ha in suo potere. Non è ancora la paura. Chi come noi è andato innanzi tante volte ha la pelle dura. Solo le giovani reclute sono inquiete. Kat le ammaestra. Questo è un 305, lo sentite dal rombo. Ora viene lo scoppio. Ma il tonfo sordo delle detonazioni non si sente, annegato nel fragore generale del fronte. Kat origlia. Questa notte c'è musica. Ascoltiamo tutti. Il fronte è inquieto. Krop dice, i Tommies sparano già. I colpi si odono distintamente. Sono le batterie inglesi sulla destra del nostro settore. Cominciano un'ora prima. Nel nostro settore cominciano alle 10 precise. Che diamine viene loro in mente, esclama Müller. Hanno gli orologi in anticipo. Musica, vi dico, stanotte, ragazzi, la sento nelle costole. E Katz si stringe nelle spalle. Accanto a noi partono tre colpi. La vampa di fuoco attraversa dritta la nebbia e i pezzi brontolano e strepitano. Un brivido ci corre la schiena. Ci rallegriamo dentro di noi al pensiero che domattina saremo di ritorno alle baracche. Abbiamo volti non più pallidi né più accesi, i tratti non più tesi né più rilassati del solito. Eppure un'altra cosa. Nel nostro sangue si è formato una specie di contatto elettrico, come allo scatto d'una molla. Non sono modi di dire, è un fatto, è il fronte, è la coscienza del fronte che sviluppa questo contatto. Al fischio delle prime granate, al primo strappo dell'aria solcata dalle detonazioni, subito nelle nostre vene, nelle mani, negli occhi, è come un'attesa sommessa, un origliare, un essere più svegli, una singolare duttilità dei sensi. All'improvviso tutta la persona si trova in piena efficienza. Spesso ho l'impressione che sia l'aria stessa, scossa e vibrante, che in onde silenziose ci assale o che dallo stesso fronte emani un fluido elettrico a mobilitare i nostri nervi fino nelle ultime fibre sconosciute a noi stessi. Ogni volta è la stessa cosa. Quando partiamo siamo dei soldati qualunque, brontoloni o di buon umore, a seconda dei caratteri. Ai primi appostamenti d'artiglieria tutto cambia e ogni nostra parola ha risonanze affatto nuove. Quando Kat nei baraccamenti dice «ci sarà musica», è la sua opinione e basta. Ma quando lo dice qui, la sua parola taglia come una baionetta che luccichi nella notte e recide netto ogni nostro pensiero. Essa parla a quel subconsciente che è in noi, vi ridesta un'eco oscura. Musica. Forse è la nostra vita più intima e più segreta che in noi freme e si leva a difesa. Per me il fronte è un orribile gorgo. Mentre ancora ne sei lontano, là dove le acque sono ancora tranquille, già lo senti che ti assorbe, che ti attira con una forza lenta, invincibile, che distrugge senza fatica ogni tua resistenza. Ma dalla terra e dall'aria fluiscono pure in noi forze di difesa, soprattutto dalla terra. A nessuno la terra è amica quanto al fante. Quando egli vi si aggrappa lungamente, violentemente, quando col volto e con le membra in lei si affonda nell'angoscia mortale del fuoco, allora essa è il suo unico amico, gli è fratello, gli è madre. Nel silenzio di lei egli soffoca il suo terrore e i suoi gridi. Nel suo rifugio protettore essa lo accoglie e poi lo lascia andare perché viva e corra per altri 10 secondi e poi lo abbraccia di nuovo e spesso per sempre. Terra, terra, terra, terra, con le tue pieghe, con le tue buche, coi tuoi avvallamenti in cui ci si può gettare, sprofondare. Terra, nello spasimo dell'orrore, fra gli spettri dell'annientamento, nell'urlo mortale delle esplosioni, tu ci hai dato l'enorme risucchio della vita riconquistata. La corrente della vita quasi distrutta rifluì per te nelle nostre mani, cosicché, salvati, in te ci seppellimmo e nella muta ansia del momento superato mordemmo in te la nostra gioia. Di colpo, al primo tuonare di una granata, torniamo con una parte di noi stessi indietro di migliaia d'anni. È un intuito puramente animale quello che in noi si ridesta, che ci guida e ci protegge. Incosciente, ma assai più rapido, più sicuro, più infallibile che non la coscienza. Non si può spiegare. Si va senza pensare a nulla ed ecco che ad un tratto ci si trova in un avvallamento del terreno, mentre sopra di noi volano schegge di granate, ma non ci si ricorda di aver sentito venire il colpo né di aver pensato a coricarci. Se ci si fosse lasciati guidare dal ragionamento, si sarebbe a quest'ora un carname sparpagliato. È stato l'altro che, oscuramente vigile in noi, ci ha buttati a terra e salvati, senza che noi si sappia come. Se questo altro non fosse, da un pezzo, fra le fiandre e i vosgi, non vi sarebbero più creature viventi. Noi partiamo soldati allegri o brontoloni. Quando giungiamo alla zona del fuoco, siamo divenuti una razza belluina. Una foresta rada ci accoglie. Oltrepassiamo le cucine da campo e dietro la foresta smontiamo. Gli autocarri tornano indietro, ripasseranno a prenderci prima dell'alba. Nebbia e fumo d'artiglieria si stendono bassi sui prati, all'altezza dei nostri petti. Sopra splende la luna. Sulla strada passano reparti di truppa. Gli elmetti d'acciaio brillano con pallidi riflessi nella luce lunare. Le teste e i fucili emergono dalla nebbia, teste chine, ondeggiamenti di armi. Più in là la nebbia cessa e le figure si profilano. Giubbe, pantaloni, stivali escono dalla nebbia come da uno stagno di latte. Si riuniscono in colonna e la colonna marcia in avanti. Le figure si fondono l'una nell'altra a formare un cuneo oscuro che si spinge innanzi nella notte, stranamente accresciuto dalle teste e dai fucili man mano che emergono dalla bruma. Una colonna, non più individui distinti. Da una strada trasversale giungono pezzi da campagna e cassoni di munizioni. I cavalli hanno groppe che luccicano sotto la luna, agili movenze, un agitar di teste, uno scintillar d'occhi. Pezzi e cassoni sembrano scivolare lievi sullo sfondo fumoso del paesaggio lunare. I conducenti coi loro elmetti d'acciaio rievocano immagini di cavalieri delle antiche età, spettacolo bello e impressionante. Ci avviciniamo al Parco del Genio. Qui alcuni di noi si caricano sulle spalle paletti di ferro ricurvi e aguzzi, altri infilano tubi di ferro nei rotoli di filo spinato e si parte. I carichi sono grevi e faticosi, il terreno diventa più rotto man mano che avanziamo. Dalla testa ci giungono avvisi. Attenzione, a sinistra, grossa buca di granata! Oppure, attenti, fosso! Teniamo gli occhi spalancati, coi piedi, coi bastoni, tastiamo davanti a noi il terreno prima di portarvi il peso del nostro corpo. La colonna si arresta. D'un tratto ciascun uomo dà del naso nel filo spinato portato dal compagno che lo precede e bestemmia. La strada è ingombra da alcune carrette sfasciate. Nuovo ordine. Spegnete pipe e sigarette! Siamo vicini alle trincee. Intanto si è fatto buio pesto. Giriamo intorno a un boschetto e abbiamo davanti a noi il settore assegnatoci. Da una estremità dell'orizzonte all'altra vaga un incerto chiarore rossastro. Esso svaria di continuo, attraversato dalle vampe degli spari. Razzi nostri si alzano qua e là, piccoli dischi rossi o argentei che scoppiano e ricadono in una pioggia di stelle azzurre, rosse o verdi. Razzi francesi si allargano in aria a guisa di paracadute e calano lentamente verso terra. Illuminano ogni cosa come fosse giorno. La loro luce giunge sino a noi, sicché vediamo le nostre ombre profilarsi nettamente sul terreno. Volano a lungo per minuti interi prima di bruciare completamente e subito altre se ne alzano da ogni parte e in mezzo a quelli i nostri, verdi, rossi e azzurri. «Gran festa stanotte», dice Kat. Il tuono delle artiglierie sale talvolta fino a fondersi in un solo sordo fragore e poi di nuovo si placa e si spezza in colpi isolati. Crocchiano le secche salve delle mitragliatrici. Sopra di noi l'aria è piena di invisibili scoppi, di urli, fischi, sibili. Sono i piccoli calibri, fra cui si distinguono i toni d'organo dei grossi proiettili che passano pesanti nella notte e vanno a scoppiare lontano, alle nostre spalle. Questi hanno un bramire rauco e lontano, come di cervo in calore, e compiono alta la loro traiettoria fra l'urlo e il sibilo dei calibri minori. I riflettori cominciano ad esplorare il cielo nero. Vanno e vengono su di esso come regoli giganteschi di luce, più sottili alle estremità. Uno sta fermo ad un tratto e trema solo un poco. Subito un altro si leva accanto ad esso, le loro luci si incrociano ed ecco in mezzo a loro un piccolo insetto nero che cerca di sfuggire. È l'aviatore, incerto, accecato e barcolla. Ficchiamo in terra a distanze regolari i paletti di ferro. Due uomini tengono il rotolo, gli altri svolgono il filo spinato. È l'orribile filo dai lunghi e fitti spini. Ho perduto l'abitudine di svolgerlo e mi faccio un largo taglio ad una mano. In poche ore abbiamo finito, ma c'è tempo prima che gli autocarri ritornino. La maggior parte di noi si sdraia a terra e dorme. Anch'io cerco di imitarli, ma fa troppo freddo. Si sente la vicinanza del mare, l'aria fredda ci risveglia continuamente. Infine dormo sodo. Risvegliato all'improvviso di soprassalto, non ho più idea del luogo ove mi trovo. Vedo le stelle, i razzi e per un momento ho l'impressione di essermi addormentato durante una festa in un giardino. Non so se sia mattina o sera. Mi collo un istante nei pallori del crepuscolo, come aspettando dolci e segrete parole che devono venire. Piango, forse. Mi tocco gli occhi. È strano, sono forse un bambino. La pelle è tenera e umida. Questa impressione non dura che un secondo, poi riconosco il profilo di Kaczynski. Siede tranquillo, il vecchio soldato, e fuma la sua pipa, ben inteso una pipa chiusa a coperchio. Quando mi vede desto, osserva con calma. Hai sentito la scossa, eh? Ma è stata solo una spoletta, è là, nel cespuglio. Mi levo a sedere. Mi sento singolarmente solo. Ho piacere che Katz sia lì. Egli guarda pensieroso verso le prime linee e mormora. Bel fuoco d'artificio. Peccato che sia tanto pericoloso. Qualche cosa scoppia alle nostre spalle. Un paio di reclute balzano in piedi spaventate. Dopo qualche minuto, altro colpo più vicino. Kat vuota la sua pipa. Comincia a far caldo, la musica attacca. Ci ritiriamo carponi quanto più presto c'è possibile. Il prossimo colpo già cade fra noi. Qualche ragazzo grida. All'orizzonte salgono razzi verdi, piovono schegge. Si sente il loro schiocco molto tempo dopo che si è spenta la detonazione. Accanto a noi è distesa una recluta spaurita, biondo come la stoppa. Si stringe la faccia tra le mani, l'elmetto gli è scivolato via. Glielo ripesco e voglio cacciarglielo sulla testa. Egli mi guarda, respinge l'elmo e si rannicchia come un bambino sotto il mio braccio, contro il mio petto. Le sue spalle tremano, esili, come quelle del povero Kemmerich. Lo lascio fare, ma perché l'elmetto gli serva almeno a qualche cosa, glielo metto sul di dietro. Non per derisione, ma pensatamente, perché è quello per il momento il punto più esposto. È vero che lì c'è della ciccia, ma una pallottola nelle natiche è maledettamente dolorosa e per di più ti fa stare all'ospedale disteso sulla pancia per mesi e mesi e dopo vai zoppo, quasi sicuramente. Lì vicino un colpo scoppia in pieno. Si odono grida frammiste alle detonazioni. Finalmente il fuoco si calma un po'. Ormai passa sopra di noi e picchia sulle trincee di riserva. Ci arrischiamo a guardare. Razzi rossi fiammeggiano nel cielo. Certo è imminente un attacco. Qui intanto tutto è tranquillo. Mi rialzo e scuoto la recluta per le spalle. È passata, bambino, è andata ancora bene. Confuso si guarda intorno. Io gli faccio animo. Vedrai che ti abitui. Allora vede il suo elmo e se lo rimette in capo. Adagio ritorna in sé, ma ad un tratto diventa rosso come una bragia e fa una certa faccia imbarazzata. Con prudenza mette la mano al sedere e mi fissa angustiato. Ho capito subito. Diarrea di guerra. Non per questo, a dir vero, gli avevo schiaffato l'elmo proprio lì, ma lo consolo egualmente. Non ci badare, non è vergogna. Ben altri che te ha riempito i calzoni dopo il primo attacco. Va dietro il cespuglio, getta via le mutande e non pensarci più. Lui si spiccia a seguire il mio consiglio. L'atmosfera si fa ora più silenziosa, ma il gridare non cessa. Che c'è, Albert? Domando. Laggiù, nelle colonne, alcuni colpi sono scoppiati in pieno. L'urlo non vuole cessare. Non possono essere uomini quelli che gridano così terribilmente. Kat dice, cavalli feriti. Non mi è mai accaduto di udire cavalli gridare e quasi non ci posso credere. Quella che geme laggiù è tutta la miseria del mondo. È la povera creatura martirizzata, un dolore selvaggio, atroce, che ci fa impallidire. Detering si rizza. Assassini! Assassini! Ma ammazzateli, per Dio! Egli è agricoltore. Ha confidenza coi cavalli, la cosa lo tocca da vicino. E come a farlo apposta, il fuoco ora quasi tace, sicché l'urlo delle bestie si leva più chiaro. Non si sa d'onde possa venire in questo paesaggio argenteo, ora così tranquillo. È invisibile, spettrale, dappertutto, fra la terra e il cielo, si allarga, smisurato, enorme. Detering diviene furibondo e urla: «Ma sparate, uccidete dunque, sacra!» «Prima devono portar via i feriti», osserva pacato Kat. «Ci alziamo e andiamo a cercare dove siano queste bestie. A vederle sarà più sopportabile». Meyer ha con sé un cannocchiale. Vediamo un gruppo oscuro di portaferiti con barelle e poi masse nere più grosse che si muovono. Sono quelli i cavalli feriti, ma non tutti. Molti galoppano lontano, si abbattono e poi riprendono a correre. Uno ha la pancia squarciata, le interiora pendono fuori. La povera bestia vi si impiglia con le gambe, stramazza, si rialza. Detering imbraccia il fucile e mira. Kat lo devia sicché il colpo va in aria. «Sei matto!» Detering trema e getta a terra il fucile. Ci accoccoliamo per terra e ci turiamo le orecchie. Ma l'orribile lamento, quel gemere, quel pianto, penetra dovunque e si ode sempre. Tutti abbiamo imparato a sopportare qualcosa, ma qui il sudore ci imperla la fronte. Si vorrebbe alzarsi e fuggire, non importa dove, solo per non udire più quei gridi e dire che non sono uomini, ma soltanto poveri cavalli. Dal gruppo oscuro si staccano alcune barelle, poi alcuni colpi. Le masse nere dei cavalli esitano, si afflosciano. Finalmente. Ma non è finita ancora. Gli uomini non riescono ad avvicinarsi ai cavalli feriti che, terrorizzati, scorrazzano qua e là tutto il dolore nelle gole spalancate. Una delle figure nere mette un ginocchio a terra. Si ode un colpo, un cavallo si abbatte. Ancora uno, l'ultimo, punta sulle gambe davanti e si gira in tondo come una giostra. Si gira in cerchio con la groppa a terra. Avrà la spina dorsale fracassata. Un soldato accorre e lo abbatte. Lento, umile, scivola a terra. Ci togliamo le mani dalle orecchie. Il gridare è cessato. Solo è nell'aria un lungo gemito che va spegnendosi lentamente. E poi non v'è più nulla altro che lo squittire dei razzi, la canzone delle granate e le stelle. E ciò sembra persino strano. Detering se ne va bestemmiando. Vorrei un po' sapere che colpa hanno loro. Di lì a poco si riavvicina a noi e con voce vibrata, quasi solenne, afferma: «Ve lo dico io, l'infamia più grande che si faccia fare la guerra anche alle bestie!» Elia Shilton ha letto Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque.